mai un innesco. Avanti. E beh, chi è? Caracava, Caracava. E cosa, come sta va? Ho fatto quella visita stamattina. Tutto a posto? Sì, da mettere a posto, un bel di Roma c'è. Adesso il 19 devo fare un angiotacchi, devo fare. Domani devo andare a farmi l'esame del sangue per una studia. Senza quell'esame del sangue non mi fanno l'attacco. Vabbè, ora vi vuoi fare. L'importante è ci stare. Sì, speriamo. Ha bisogno gli interventi. Non mi vuole operare fa cosa prima di venire a Baidaghi, c'è neurisma che faccio. Eh beh, certo, devono controllare prima. Ma così è. Perché se mi fanno un intervento, poi non possono intervenire su questo qua che è più grave, hai capito? Ho capito. Ma devi fare tutto quanto, di analisi, tutto quanto, no? Domani devo fare un prelievo e l'esito lo devo buttare di 19 da giù a prenotare la DAC. Dove lo devo portare? All'ospedale devo portarlo quell'effetto di questo esame del sangue, se no non mi fanno l'attacco se non hanno quello. Ho capito, su casino, via. Non esce da sotto, va. Ma cosa vuoi ti dire? Per carità. È un casino. Ma va come c'è il caramano, come si entra, mi sa fare. Cosa va a dire, fra? Adesso comincia il caramano il mese prossimo. Ecco, adesso il giorno 19 devo fare questo attacco qua, già prenotata e tutto, c'è già appuntamento. Quando è il 19? La settimana prossima. Quanto ne avevo oggi? 9. Tra 10 giorni. Arrivite il 19, forse non c'ho impegni, ti accompagno io, va. Io non ho problema. Chi è? Se non c'hai impegni mi accompagni tu a fare questo attacco e via. Non c'è problema. Chi, Franco? Ehi, Franco. Ma c'è problema. Io domani devo portare a Lucia a fare torno a questi cosi lì, ai tiretti. È un casino. Non esce da sotto, dopo da una bassa all'altra, non sto concludendo più niente, non so se vuol dire niente. E io invece devo camminare, ma adesso di camminare, questa chirurga qua. E quando c'ho il dolore a camminare lo stesso, mi ha detto. Stamattina presto, in spiaggia devi camminare, piano piano, in spiaggia. Devi camminare in spiaggia, nel bagno asciuga, capito? Che ti fa bene l'aria di mare, devi prendere aria di mare, capito? Allora ci hanno detto che deve prendere aria di mare, non è venuta di qua. Ma se l'aria di montagna va bene, ma l'aria di mare fa bene, capito? Per la respirazione, per tutto, Natalia. Purtroppo bisogna andare così. Sì, già avuto qualche maledetto di camminare, maledetto, ma addirittura... alle 6:30 io se conta. Perché c'ho problemi alle arterie, capito? E devo camminare per forza, dito. Io vado in gruppo a vita sedentaria. Natalia, il casino è quello, ma se non hai gana cosa fai? La mattina a camminare, adesso cominciano le cose, per morire, c'è lo spinghi e ci sono le spigole, capito? C'è un dirigente che cammina, spinghi, tu vedrai le gambe, cazzo, la spinghi. Sì, che ce l'ho. Un dirigente sta facendo spinghi anche la mattina presto, stanno prendendo pure delle belle spigole. E io, vabbè, via. Io non ci ho mai provato a pigliare spigole. Ci vogliono gli artificiali, capito? Sì, già lo so. Ma allora vediamo, prova a pucciare un po' lo manzano, vediamo. mi ha detto di vedere quando è che mi viene il dolore quella dottoressa lì. Ma che cane, in spiaggia, lo fai correre, capito? Ma io non posso burrire, io se lo vedo. E beh, tu cammini bene, dovrebbe burrire, e la caduta mi ha portato aria nel camper, no? Adesso mi faccio il male. Oh, non c'è entrata in acqua, l'ho dovuto prendere e buttarcelo io in acqua quel cane. Beh, l'acqua Natali. Vuol dire che non se ne ha fatto mai di bagno, è logico che la dimmi. Ha giubilato, te l'ha giocato in evasta, l'ha giubilato di vivi e davvero ci siamo andati a terra. A vedere se ne è giunto correndo. Poi l'ho ripreso, l'ho riportato e ce l'è tornato in barista. Ha detto no, non vedrò più, su basta. C'è un dell'onfia. Poverina. Ma li fa bene il bagno, capito? Lo devi fare ogni tanto. Che cacchio. Se la dimostrata è una bassa, te la giunta, ragazzo. Vabbè, ma che ora è il compito? No, ma che? E se non l'ha visto i Natali non c'entrano, capito? E infatti. Ma vabbè, adesso vediamo un po' com'è. Ok, perché alle 6:30 devo andare a portare il cane con Giorgio. Uffa, con c'è. Sto parlando io. Cosa vuoi ti dica? Vabbè. Adesso c'era in campagna, l'ha portato giù. Ma si è stata quella perdita dell'autoclave, gli ho cambiato quei manicuri. Aveva accusio. E infatti, se no è un macello. Cazzo, non puoi stare sempre a consenti, senza consenti. Se dai brutto bicidottone, col cavolo si ossida. Ma se dovevano essere biscuit così, le curve tutto plastica, il PVC, non vanno bene, si spaccano, poi gli dicono andare da te. Cioè, no, guardite, la giubilazzati, l'attacco, non robitende, ma dicono, ma è possibile pure, guardate, vabbè, ho controllato, ma sono stato il raccordo della filata, capito? Perché avevano quelli di Ottone, quelli lì ci vogliono, non so, come c'è nemmeno a Roma con gatto è venuto di qui. Ma infatti li ho messo quelli, in Ottone, così non si rompe più. Perché le autoclave che ci vuole la luce non servono a nulla, ci vogliono delle autoclave che ci hanno preso da te corporato, capito? In modo quando apri l'acqua attacca e quando chiudi si stacca. Invece lì basta una piccola perdita e sta sempre attacca. Adesso un attimo. E anche questo. Mico c'è il telefono. Adesso un attimo, Franco. Adesso un attimo. No, non riuscivo a aprire il coso del freezer. Come vai? E forse io non mi riesci a aprire. Quando lo dico, sai da fare, le danno quel pezzino. Aspetta un secondo e poi tiri. E io ho capito. In modo che passa aria, appena di aria si apre subito. Ecco. Ma. Se ne è un casino, anche il mio è così perfetto. Ma pure tu gli vado così. Guarda, non mi ha detto che con le due mani fa aprirlo una cosa, che infatti dopo un quello sopra e da poi te lo dico io. E se no devo pigliare la mazzetta pure che hai pinto. Su via. E come mi rompendo quello, hai fasciato proprio. Signore. Brava, adesso ve lo do. Adesso vedo un po', se o domani o dopo c'è un attore, voglio vedere se c'ha qualche canna da spingere, quelle belle però. La mia non è da spinning, quella che ho io. È di dredging sono diverse quelle da spinning, hanno il manico più lungo. A me mi piace quella da spinning sottile, capito? Quella che sembra una frusta a me. Vabbè, ma quelle che ho io non sono da spinning. Quelle da spinning hanno il manico più lungo. Le mie sono da aging, papilla calamari, zecchie, queste cose così. Ma a me piacciono quelle che hanno il puntalume sensibile, capito? Così quando attacca te ne accorgi subito. Sì, a giù capito. C'era, non lo so adesso, dice che vogliono portare quelli della Daima, che sono belle, quelle carbonio intrecciato, non so quanto costano. Devo vedere come sono però. Sì, ma c'è andato, da dove lo vedi? Se vedi tu. Ma faccio dalla radio. E un muso se paghi su. Ma lo so come a casa so, perché lui è andato a fare una visita e non so che la torna, boh. Sì, è giù capito. Domani devo andare a fare il esame di Rusango, quindi mi subito e altro. A che ora devi andare? E mi sa risetti ando, mi lo posso fare, tu cosa mi nazzo subito. E da domani avrà giù, come si chiama, lo referto, pronto. Ma dove te le fanno la carica, al policlinico? No, no. Allora si dossi ando e mi riposso fare. È un prelievo che devo fare, solo un esame solo, ma vedi se il rivenito funziona in diverso. Vabbè, anche devo andare a risette. Sì, a risette anche. A chi mi pare che inizia a risette e mezzo, a pigliarlo, l'usango, così c'ho uno di ribrimi, così se mi passi nei bagano me ne ha fatto un cazzo. Ando, lo posso via. Ma infatti non ti ricordo, anche il Garumberto vi fanno, però non lo so, boh adesso. Ma ti conviene a fare così, guai, tanto vado in città, Ibi, Rampato, è un casino. E infatti, poi all'ospedale sono lunghi, cazzo, devi pigliare l'appuntamento, chi c'è, chi dà, invece ando, non ti posso fare, boh, perché intanto a me mi servono per fare l'attacco, quel referto, no? Se no, non me la base né adacchi, chi è un adacchi che fa vedere l'andamento di Rusango, mi? Ho capito, sì, beh, per forza. E vogliono vedere se i reni stanno funzionando bene, capito? Che una chirurga chissà, cazzo, ma brava, mi. Dai, già ce ne sono bravi. Non so tutti, no? Mi sono te che passerebbe che ti macellano, infatti caravena. Già lo so. Chissà di una zio sempre mi ha acciappato subito la vena. Poi è un prelievo solo questo esame qua devo fare, è un usurlo che mi devo fare. E io lo faccio sempre questi esami per portarli alla diabetologa, quindi non mi costa niente a farmi fare che esame in pressa. Ando, e così mi raggio pronto. La mando via WhatsApp all'amica di Concetta, che è chirurga, quella lì, e guarda se è tutto a posto, e lo dà a quella chirurga che mi ha visitato oggi. Cazzo, mi ha fatto le codopre, mi ha fatto visitando. Ma buona era. È una bella donna veramente. Amica, sono chirurghe, tutte e due sono colleghe, no? Però chissà che mi ha visitato, è amica di mia moglie. Ci va a prenotare pure la DAC, già pronta, le faccio un appuntamento in buco, anda la bozza. Beh, se lo dice va bene, dai. E allora, tu vai a Trento, se no, cazzo, ha viaggiato anni per fare queste cose. ma com'è che rubateli? Adesso vedono come va da questo Angiottacchi, si chiama Angiottacchi, vedono come va quella roba che ho sotto i reni, perché quella lì mi devono mettere due protesi addirittura, per evitare che se esplode, sennò si copia, muri, no, non c'è Cristo. Che è grande già quattro volte tanto di quanto dovrebbe essere. E quindi la devi operare per forza quella, Sì, però non è pronta a operare, ma sì, è ancora biomanna a operarla. E siccome non possono intervenire, adesso bisogna tenerla sotto controllo questa cosa qui. Ogni tanto mi devo fare l'eco Doppler, l'ho già fatto. Quella roba lì, e non si è mossa di un millimetro, non è diventata né più umana né più minori, è sempre così, però bisogna controllarla. Baita, mi si è diventata più umana, intervenimi, comprese, così mi va in uno e l'altro, perché non mi possono fare quella della gamba, se no ostruiscono il passaggio, magari poi non riescono a entrare dove devono mettermi quelle protesi. Ho capito, sì. Non mi vuole operare, paghi su, anche se no siete operegiani da voi, cazzo, devo controllare che data cosa, non riesci a farla. Bisogna prima mi facciano una cosa e da voi l'altra impari, no? Se no come fai, se no è un casino. Quella è la difficoltà, me l'ha spiegato, mi ha fatto un disegno e tutto di come è la situazione. E a che ora apre il centranario? Sarà 8, mi sa. No, alle 7:30 cominciano a pigliare usango. Cazzo. Alle 7:30 cominciano a pigliare usango, me ne so candenti. L'esito me lo date domani. Ho capito. Quindi presto, dai. Allora, almeno sono uno dei primi, me lo fa, me ne sto andando. Non rimango in chibia, aspetta un attimo. Cazzava che mi ne so commentato, bra. Ti devo dire una cosa, Franco. Una paridina. Se ti dico che è rientrato, non vi credi. Cesare. E quando è tornato? A rimani. Cazzo, è più usato da macchino sempre, il usato aggiunto per l'user service. C'ha la borsa del catetere, ha preso, sta piena di bicio. Quando l'hanno dimesso? Sia. Vabbè. Speriamo che non cade a balle. Sai ciò che ha questo da roba con misurio, ma sì. Vabbè, infatti non sta disturbando a nessuno, queste antenne non disturbi. E infatti, Giuseppe mi ha detto che lo vede benissimo il televisore. Allora, disturbavi perché era bassa, capito? Poi non radiava niente, via, era attaccata al muro, cosa pretendi? Che funzionava questa antenna? Sì, funzionava, tu che disturbava, perché era più bassa delle antenne di TV. A me da vita che ti piace a dire, la vista che bello travaglio non mi raggiù qua. La vista pure cose, giovania. L'antenna tua. Ha detto, cazzo che bel lavoro, bella dritta, cazzo. Sì, a chi la mia no è. Cazzo, si vede da via Sorso, tu da via Sorso per uscire per andare in via Bongino, da lì si vede. Sembra alta a me. È 3 metri di tubo e forse qualcosa in più da te. È 3 metri più 7, 10 metri è mi dà te, sai tutto. E già lo so, il tubo è da 4 metri. Cavolo. Però avete fatto un'imbaglia, ma se io mi voglio piazzare un di polo non lo posso piazzare. la cosa nove li fa nella garrucola. E se che vuoi assai, mi ha piazzato un di polo, ma sai, è tutta la garrucola, vivo. Ma se non tu me la buoni, io tu è telescopico quello. Ma non è telescopico il mio. Ah no. È tutto un pezzo. Ma io se può comire una pesce, non è un problema. E infatti ho riposto un ganso a che cosa. Già esco giù, perché ho in mente un dipolo che è lungo solo 5 metri. Ah, in tutto ho 5 metri a braccio. 5 metri, asita un attimo, 5 metri per braccio, invece di essere 10 metri 5 metri, perché gli faccio le cariche. Ho capito già. Scusa un attimo, alla fine mi è venuta un'idea. Sì, c'ho già il tubo per fare le cariche qua. Ma fa di so che andato da Bricoma e cazzo me ne sono dimenticato di comprarmi il Gabug. Dovevi comprare i bacetti e lo... come si chiama? Ero Gabo, Baffamiru. Ma c'era un progetto, gli ha fatti, no? Sì, le due cariche li fai e stai andando, capito? E invece di fare questa misura lunga, quale carica lo ridurre a 10 metri, capito? Sì, in tutto 10 metri. Garo sopra. C'ho le misure delle cariche e tutto, anche il tubo c'ho per fare le cariche. Natali, le metto! No, aspetta, quando lo fa lo facciamo assieme, ma così me lo faccio pure io. Io il filo già ce l'ho qua, quanto te ne serve? 10 metri me ne serve, non è buco. Non c'è nulla. Mi servono 10 metri di filo e buco, 5 metri da una parte e 5 metri all'altra. In mezzo ci metto le cariche. Babbo, io sto andando. Allora, bocca al mondo che io ce l'ho, il filo ce l'ho io ne ho 20 metri. Con 20 metri ne facciamo due, capito? Sì, se già di tagliare su di cui io faccio lo sighetto io. E mi ritaglio. Tu non tagli nulla al sighetto, vado a tagliare tu, perché con un giro è già tagliato. Ma è tubo da 40 a me. Accidenti, anche lo tagliato il primo giorno lo taglio, lo tubo da 40. Ma dimmi da me, ci ho tagliato tutti quello regolabile io, capito? Me zugai, tanto mi il progetto è qui, ci sono tutte le misure del capo, delle cariche, tutto. Allora se c'è tutte le misure lo facciamo, ne facciamo due, una per una a me, dai. Il capo ce l'ho io, le cariche le facciamo lo stesso, capito? E si va, e poi c'è anche la pistola a caldo, va giù tutti, no? Anda bene a me, da. Addirittura c'è anche il PL, quelli femmina, capito? Non c'è problema. Se lo vogliamo fare a PL, se no lo facciamo a Mammut e andare a te, se lo vulcanizzi e se ne affutti. Allora cosa vuoi fare? Si può fare anche uno scoglionetto, mettere un tubo tutto, sei colato e fai uscire i fili già direttamente a collegare al PL, capito? Così non entra neanche Eva. Sì, infatti. Già lo so io come farlo, non ho problema. E così non stai a vittare e a svittare, scendi direttamente con la discesa e buco. Un rupino gli ha attaccato a Rudy Polo, vai, e non c'è nessuna dispersione, capito? E infatti adesso quando lo faccio, vediamo un po'. Comunque ricevo anche con questa antenna qua, Pure io ricevo con questa, ma quello di poi è diverso, ricevi meglio, bella carina. E infatti io lo voglio via a Parigi, ma cosa ricevo meglio? Ascoltare, quello di poi ascolti meglio, sì anche con la verticale ascolti, ma non è che hanno questo grande segnale, capito? Perché ogni antenna deve avere la frequenza sua, se no non risuona. Progetto già qua che me l'ho scaricato io, ci sono tutte le misure come fare e come non fare. Le cariche le prendo il filo, no? Stesso, semplice. Ehi. Andare infatti così, andare a volte, lo duco. Hai compreso. Mi sì, mi dici su dove lo posso comprare quel termorestringente. Termorestringente, guardate, per gli ingegneri. E allora bisogna andare anche a comprarlo, i miei esempi. Perché dove ci sono le cariche gli metto quello lì. Quello grosso ci vuole. Ehi, anche grosso rubino. Si rentro e da voi gatto usaggio, quando devo usare dove c'è la saldatura gli metto quello lì. E manco è puro e sano. Eh beh sì, io ce lo si faccia. Poi il bongo che si faccia, ti già lo so io come farlo. Guarda che c'è un bel lavoro. Eh beh. Praticamente 10 metri. E allora? 10 metri già è bello, bello grande, già va bene, dai. E se no devi fare 20 metri, cazzo, l'ho guarito. 10 metri, 10 metri ci vuole per farlo giusto. Beh sì, Ma quello che c'ho su non lo so, tutto, l'ho tagliato io lì. Però c'è rimasto tutto il capo già con le cariche. L'ho lasciato sul tetto. Non sono un filo, agganciare e fare avvarata, ma quello non va bene, perché oramai io l'ho tagliato, non mi ricordo adesso cosa avevo fatto. E poi chi c'era più lungo pure, chi c'era 13 metri, babbrazzo. 26 metri. Allora, cazzo, ma è poco andava bene su, ma te lo ricordo. Quello è un demonio, vuol dire poco, e poi io non ho tolto. Una bomba era. Era vedusicchio di polo. Pigliava di mia rubia. E anche quello che c'ho della per 11 metri che ci vuole brutissimo, E quello stazionario non ne ha, giusto, Uno e uno. E no, mi vero bicchicchito, mi dici, ma a me. Ma detto vuoi farmi da pruedo. Vero è qui. Avere le cuffie e farlo paventare. Chiamare il bongo, le cuffie, il bongo. E parla con Mulo. Parla con Mulo. E veramente le due cappuccette che vanno bene, capito? Cosa fra? I cappuccetti, invece di mettere i piedi, mettiamo i cappuccetti. Qua, bisogna fare il toroide centrale e bisogna farlo col capo coassiale, bisogna farlo, ma quello già lo so fare, io ce l'ho uno pronto, ma c'è multibanda e poi desimetri il braccio, non andare, invece glielo faccio per lui proprio ed è puro e sano, gli pongo una catturetta di vibrazione, gli pongo. C'è pure sano lui. Infatti un'altra lì. Devo stare lì due, una a te, una a me, dici tu ruidi. E poi già lo faccio io il ballo. Cava cava. E ne facciamo due, ne facciamo. Così mi aggiudi i vari misuri e tutto. Lo metto lì all'accio. Ascolta, dai, domani mattina passo io a prenderti, così fai quella cosa lì, capito? Sì, devo andare solo a fare su cose di rosango e bombe. Sì, ma dopo devo fare un'altra commissione, come? Già lo sai. Allora, ma Sandu, tanto 7 e mezzo, 8 manco 20 te ne già mandendimi. Vabbè, io passo alle 7, sono lì, capito? 7:10, dai, 7:05. Siete pronto, capito? Che regale. Ma tutto lui non avevi altri Natali? No, me li ordino da internet, ne ho uno solo, ma è già fatto quello lì per il multibanda. Puoi fare anche una verticale con quello multibanda. Solo che è troppo lunga, gas. Ah, vabbè, dai. mattina che sa che ce l'ho uno, però è piccolo, eh. No, no, già li ordino io due, uno a te e uno a me, fra. Devo fare con un capo coassiale, uguale, panchini, un preso. Ho capito, sì, certo. Tanto la discesa ce l'ho io, però faccio una cosa quando l'ho piatta, adesso con l'RG50 al limite, lo piazzo lì per ricevere, capito? E l'altro cavolo faccio la discesa giù, quell'altro grigio, che ne ho quasi 15 metri, mi dovrebbe bastare. E fa. E risolvo il problema. E magari. Vabbè, fra là, se vuoi scendere tu, devi andare o a Via Lamberto oppure a Ruazzidotti. E chi vi inizia una ricetta a Ruazzidotti a pigliare, cioè a ricetta e mezzo inizia. Però bisogna se a ricetta in chi vi passa i primi brutti. Anche da voi comincia a revigenti. Infatti, Via Lamberto non esci più, No, Via Lamberto, cazzo, iniziano più tardi. A Cantalotto è pieno di enti. Alle 8:30 iniziano a fare prelievo, alle 8:10 e poi un quarto. Capito? No, al latte dolce che iniziano alle 7:30. Guarda al latte dolce. Che bella guerra. Quanto si paga, la verità è. No, non lo so neanche se mi fanno pagare. Ma anche se mi fanno pagare, è un esame solo che devo fare io, non pago niente, si può dire. Vabbè, ma se c'hai l'esenzione ticket non dovresti pagare. Ma siccome ti non risorso sovvenzionenti, allora ti fai ne paga paghizzo, compreso là. Ma ti fai pagare l'ultima voce, 25 euro mi pare, ma erano tanti esami, mi. Tra cui c'era anche quello lì. Perché quello me la fa fare sempre quella della diabetologa. Ho capito. Se ci sta volta devo fare solo visto l'esame, mi fa un prelievo e me ne sto andando. Che raga. Da voi andiamo a fare la commissione che devi fare tu. Se devo fare la commissione veloce. Sì, infatti. Che raga. Hola. Ma il carradio all'aumento va bene? No, già va bene, non aumentare nulla. Se non è troppo voce da buco. La lascio così? Sì, già. Va bene, non la chiamo a cabella da che non faccio i PCT per vedere a quant'è il micro. Mi sa che è basso, sì, va bene. Rimane così. No, che va bene, non è basso. Andava bene. No, già va bene questa radio, dai. Io mi ho buttato i ciaffi, ma attaccarli al muro, per attaccare i monitor al muro, così li posso portare come voglio io, del computer. La giuia piazzati e tutto. Ma il monitor? Ah, ho capito, sì. Di lusso è, così va benissimo. Andava sì. Io lo gioco più l'altro qui se ne metto allora da... Da 26 ampere, 30 ampere, dai, però l'altro, quello grosso, mi. Io ho capito. Quello già non si bosa, tranquillo. E beh, ci mancherebbe. Cazzo, ma ti lo immaginare non prendi più nessuno in oggi? Ma lo sai che non niente vera a curte, Juvi? Non penso proprio, se noi da entrate a farvi dare. Vabbè, me la potessi andare. Io mi sono entrato giusto a fare una chiacchierata, già acceso, ero messo la mia stazionaria, poi ho sentito a te, ho detto se faccio una chiacchierata con Natalino, vabbè, quindi non ce n'è problema. Sì, infatti. Andare, come dici, se andiamo bene a te. Andiamo bene. Sull'altra radio ce l'ho sempre spenta, adesso la accendo, te la faccio sentire. Quell'altra, hai capito? Quella da combattimento, mi. E lui ora giura la radio da combattimento, mi aveva l'assenza. Fate la vostra intendi. Allora, proviamo. Vediamo un po' come siamo messi. Così. che siamo messi. Ma mi senti lì a me? Certo, questa è la radio a combattimento, come va? Benissimo, e la mia come va? Una bombetta, va bene. Aspetta un attimo, vedo un po' se... Come siamo messi? Siamo messi... Stazionario non ne ho niente. Mezzo gai. Allora ciò cioè, vuol dire che neanche si muove la lancetta. E così deve essere. Vuol dire che l'antenna va bene, dai. E chi c'è una bomba che c'ha antenna in chi? La bombetta, eh. E te credo. Oh, io via. Adesso lo sto pilotando col... MB più 4. Anda bene, anda bene Meda. Solo ogni tanto in questo MB più 4 mi si blocca il coso della portante. A me indica che è troppo duccio. E un bel di voce, come ti mollo poco poco, tac, mi stacca la portante. Ma se me la fa tornare, allora già posso. Tra tu chi dà vista. E anche questo, non sai cos'è, la polvere Natalì. E la di tu, una passata di chi su Maurer. Fanculo, cazzo. E cosa ti è successo ora? Ogni tanto il pittitino deve chicciare, deve essere sporco anche il mio, gà. Deve chicciare fuori. E chi ci va, chi si micro interruttori, cioè, sotto il tasto. Era difettoso, era. Ma già gli ho messo quel disossidante. E a secondo me, se tu non lo premi, mi fa, devi premerlo forte, capito? Sicuramente ci sono i cusi dalla... che non preme bene il pulsante, devo smontare e controllare. E se non ribono uno spessore in chivi, nei rubititimi, e così vedi che già premi bene. Questo è il suo microfono originale, 1, 2, 3. È più chiara la radio. È il microfono normale questo. E mai andava, è più chiara la radio. Hola, hola, non mi piace. No, ho capito. Hola, hola, hola, hola. Hola. Adesso già va bene. C'ha un effetto presenza fuori dal comune. È veramente bella questa radio. Quel microfono va benissimo. E questo è l'MB più 4. E si sente che ti fa un coso di vuoto mi quando l'effetto camera ti fa mi. L'MB più 4. E questo è il suo microfono originale. E ma è più chiara chi c'è la radio. Più bella. Mi piace di più questa. E a voglia. È più chiara, amico, come radio, è bella squillante, capito? E questo è il suo microfono originale. Cesso, cazzo, va giù, l'uso santa, no, che l'ampaddu, che ancora non mi ha dato la situazione, Ghiddu. E io ho chiesto per quegli spinuzzi, ma mi pare non venne. E quando male a che cosa, Nobby? Tutto da continente bisogna ordinare. Non c'è nulla da fare, qua non trovi più un tubo, parlando in termini idraulici.